Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Sono le 10 e 12 minuti, buona domenica, da Stefano Gallarini comincia Il riposo del guerriero e voglio subito coinvolgervi perché la puntata di oggi parlerà di giochi e videogiochi. Ci avviciniamo al Natale ovviamente e i giochi fanno parte del Natale perché si regalano ai bambini, ma non soltanto, si regalano anche agli adulti. Ci sono anche videogiochi, fanno parte della categoria ovviamente del divertimento ludico e non soltanto, anche quello magari culturale, poi ne parleremo nel corso della puntata. E poi perché a Natale, insomma, di tradizione giocare o al mercante in fiera o alla tombola, chiamatela bingo come volete voi, però insomma ci si trova di solito tutti insieme, si estraggono i numeri e si fanno le puntate, no? Con gli euro ormai una volta si facevano con le 10 lire, spesso le mancette che così riesci a recuperare a Natale poi le perdi nella tombola sperando di rifarti in qualche modo. Oggi giocheremo però anche con voi in moltissimi modi perché alle 11:15 c'è la possibilità di portarvi a casa le esperienze di Smart Box. Ne abbiamo tre da regalarvi anche oggi, dovete chiamare il numero verde che fra poco vi dirò, e più tardi invece alle 11:30 il mistero in 24 minuti. Come sempre la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere sulla feltrinelli.it, ammesso che riusciate a risolvere il mistero, che come sempre può essere una notizia della settimana oppure un personaggio. Per arrivare alla soluzione avrete degli indizi musicali che mano a mano vi farò ascoltare. Allora, il numero verde per prenotarvi sia per vincere le Smart Box sia per prenotarvi per il mistero in 24 minuti è sempre lo stesso, 800 24 00 24. Ma anche il numero per gli SMS, oggi li voglio pronti a giocare in qualche modo, almeno per ricordare magari i giochi che vi sono piaciuti di più, quelli che non riuscite a dimenticare, quelli che in qualche modo fanno parte della vostra vita. Ci sono giochi così che hanno caratterizzato magari la vostra infanzia, giochi in scatola per esempio, che volete in qualche modo ricordare, perché subito avremo un ospite che ci aiuta, ecco, diciamo così, a fare questo. Non voglio svelarvi subito di chi si tratta. Il numero per gli SMS 349 238 6666, e visto che sono le 10:15, gli aggiornamenti sul traffico. Strade in diretta. Sulla 4 Milano-Brescia ci sono rallentamenti per un mezzo che ha perso il carico in direzione di Milano tra Rovato e Palazzolo. Raccomandiamo la massima prudenza in queste ore che è in viaggio per possibili tratti ghiacciati, soprattutto al nord e nelle zone interne del centro. Oggi tra l'altro sono possibili nuove deboli nevicate al nord anche sulle zone pianeggianti. Al momento nevica solo sulla 5 Torino-Osta tra Autoporto e il traforo del Monte Bianco. Attenzione inoltre alla nebbia che riduce la visibilità sulla 1 tra Calenzano e Chiusi e tra Magliano Sabina e Ponzano Romano. Nebbia banchi anche in Toscana sulla 11 Firenze-Mare tra Firenze-Peretola e Pistoia e tra Chiesina-Uzzanese e Capannori. In Toscana resta chiusa per ghiaccio la Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli Ovest e Lavoria in entrambe le direzioni. Ed è tutto, torniamo tra mezz'ora. Il riposo del guerriero. Allora, per introdurre l'ospite, io vorrei far partire una sigla che dovete riconoscere. Insomma, io credo che il nostro ospite sicuramente riuscirà a riconoscerla, ma anche molti di voi, perché insomma io ho tantissimi ricordi legati proprio a questa sigla. Sono passati circa 40 anni. Andrea Angiolino, buona domenica. Eccomi qui. Ecco, ti è piaciuta la sigla? Tu l'hai riconosciuta, immagino. Mi sta muovendo qualcosa dentro, ma ne ho pochi più di 40. Vabbè, insomma, quindi un po' ti ricorderà. Erano i Giochi Senza Frontiere, ecco, iniziati negli anni 70, poi negli anni 90 sono terminati, e questa era proprio la primissima sigla. Poi cambiò ogni 10 anni circa, la sigla cambiava più o meno. Allora, Andrea Angiolino, insieme a Beniamino Sidoti, non so l'accento dove va messo, è giusto? Sidoti è perfetto. È perfetto, bene. E per Zanichelli hanno appena pubblicato, proprio in occasione quasi del Natale, il Dizionario dei Giochi, che è un'impresa che io avrei tanto voluto così fare, ma chiaramente non mi ci sono mai cimentato, perché non avrei mai saputo da che parte cominciare. Voi da dove siete così, da dove siete partiti? Siamo partiti da un pizzico di incoscienza, nel senso che avevamo previsto un paio d'anni di lavoro per circa 1 milione di caratteri, partendo dal fatto che io peraltro sono autore di giochi, anche Beniamino ne ha pubblicati, entrambi abbiamo scritto libri sul gioco, e lui è anche fondatore della manifestazione Lucca Game, insomma siamo nel settore, siamo partiti dalla nostra esperienza, da quella dei nostri colleghi, dai ricordi poi di amici, di parenti e di compagni di giochi, da circa 600 libri che alla fine abbiamo citato in bibliografia, di opere specialistiche sui giochi più diversi, ed ecco lì che alla fine in quasi 10 anni anziché 2 abbiamo composto quasi 6 milioni di caratteri anziché 1, e un dizionario che spazia sul mondo del gioco proprio in tutte le sue interpretazioni. Ecco, quindi insomma avete cercato di inserire il più possibile, ovviamente sarebbe impossibile inserire tutto, è veramente un'impresa, però ho notato che ci sono i Caolini di Bruxelles, faccio un esempio di un gioco che si gioca con carte e matita. Adesso io parlo di cose che molti ascoltatori non conosceranno, io vorrei fare un programma solo esclusivamente sui giochi, perché ce ne sono talmente tanti e anche particolarmente interessanti e facili da fare, così anche da improvvisare. Dicevo, dai Caolini di Bruxelles alla Trottola piuttosto che al Giochi Senza Frontiere, nel senso che sono citati come trasmissione televisiva che raccoglieva appunto le varie nazioni europee e le faceva giocare prima ancora dell'avvento dell'Europa Unita, quindi insomma è una trasmissione che guardava avanti. Andrea, io non so di quale gioco chiederti, ma quali sono quelli che vi hanno impegnato di più nella ricerca e nella costruzione di questo dizionario? Ma in realtà è proprio la vastità dell'argomento che ci ha impegnato, come le ciliegie un gioco tira l'altro, alla fine abbiamo raccolto 6.500 voci, essendo un dizionario si parte dalle parole, quindi sia i nomi dei giochi, magari regionali e quindi variabili da un posto all'altro, sia i materiali di gioco, i tipi di giocatori, i tipi di incontri, di scontro, di azioni che si fanno, dall'acchitto allo smazzare, al rilancio, al bussare e così via. Parole che peraltro assumono significati anche nella lingua corrente, quindi analizziamo come dal linguaggio del gioco si passa alla lingua vera. Certo, tipo ricevere il due di picche, faccio un esempio. Esattamente, c'è quello, come essere il due di coppe, che è più classico, come il primo acchitto e così via. Quello che c'è da dire, appunto, l'impegno è più globale. Molti di questi giochi, come giustamente dicevi, sono giochi facilmente riproducibili. Devo dire che abbiamo cercato, più che parlare ovviamente come facciamo di Monopoli, Risico e degli ultimi successi anche di autori italiani nel mondo, soprattutto di giochi riproducibili, quindi giochi con carte matita, giochi di carte, di dadi, di tessere, giochi per bambini di movimento, sono descritti con tutte le loro regole, perché il modo migliore, diciamo, di capire che giochi sono e come funzionano. Però questo lo rende anche un manuale che consente di scoprire o riscoprire veramente centinaia o migliaia di giochi. Quando poi c'è un tabellone, magari abbiamo dato lo schema in modo che chi vuole con un po' di bricolage se lo può costruire, se non lo trova in commercio. E quindi l'invito è proprio quello, molti giochi sono facili da fare, qui trovate le regole, trovate le varianti e quindi potete ritrovare dei modi di giocare diversi. Diversi anche perché partiamo da parole italiane, ma abbiamo censito anche molti giochi di altre culture del mondo e anche di altre epoche, magari gli scacchi vichinghi, oppure tutti gli antenati degli scacchi nati in India, passati per l'Arabia, che si giocavano in maniera diversa e magari interessante da riscoprire. Ecco, quindi un dizionario che non è soltanto da leggere, da sfogliare soprattutto, ma è anche da giocare in qualche modo. E tra l'altro c'è un modo di esporre il dizionario particolarmente interessante e molto nuovo, nel senso che moltissime parole sono in blu, come se fossero dei rimandi in realtà ad altrettante parole che sono nel dizionario, no? È un po' come quando siamo abituati con internet a cliccare, no, su una parola per poi agganciarci al significato di quella parola o a una voce che la contiene. E in questo modo avete cercato di dare più informazioni possibili, perché mentre si legge è molto facile ritrovare negli articoli scritti, nelle voci, tutti i rimandi per approfondire l'argomento. Sì, questo devo dire, alla Zanichelli ci hanno fatto notare che il rimando da una voce all'altra l'abbiamo usato parecchio più di quanto fossero sì, abituati a vedere. Sì, moltissimo, infatti, esatto. Proprio perché ci interessava da un gioco magari indicare la sua variante o magari spiegare i materiali che si utilizzano, che magari sono comuni a più giochi, per cui i dadi poliedrici, la rulettina o altre cose misteriose, piuttosto che tutte le distinzioni fra tavoliere, tabellone, plancia, mappa esagonata, tutte le forme che possono assumere le superfici di gioco da tavolo, per dire. E da lì appunto passare da un gioco alla sua terminologia e così via. Fra l'altro questo ci consente anche di dare un approfondimenti vari, aneddoti che spero diano una lettura piacevole, non solo un manuale di consultazione. E anche di fare un gioco per cui, per esempio, tutti i giochi enigmistici, i problemi con i fiammiferi, il sudoku e così via, hanno degli esempi giocabili. Noi rimandiamo poi alla voce soluzione, che come nella rivista di enigmistica le ultime pagine, questa voce raccoglie le soluzioni di decine di giochi, per cui già da soli si può iniziare a giocare col nostro dizionario semplicemente mettendosi alla prova magari sul mosaico piuttosto che sull'anagramma o sul certo palindromo. Io mi sono perso fra l'altro perché ogni cosa veramente come le ciliegie, come dicevi tu, una tira l'altra. E senti, ci sono anche molti termini dialettali, perché i nostri giochi, quelli di carte soprattutto, hanno dei termini dialettali per indicare lo stesso gioco. Faccio un esempio: il 3-7 a non prendere si chiama anche ciapanò. Esattamente. Ecco, la difficoltà quindi di non di trovare anche tutte le associazioni, perché riuscite anche a indicarne parecchie di queste variabili, diciamo, dialettali di gioco. Sì, a volte sono addirittura decine per giochi, anche poi giochi di bambini, per esempio, piuttosto che giochi come la lippa in cui si fa volare un bastone e lo si colpisce poi per lanciare lontano. E addirittura col paradosso che posso dire la schicchera, noi diciamo a Roma, il cricco, dicono a Modena, la bicellata, dicono a Genova, che poi quel colpo di dito che si fa tenendo l'indice fermo col pollice e poi lasciandolo andare di scatto contro una biglia o contro un tappino, ha tanti termini dialettali, ma non abbiamo trovato un vero termine nazionale, per cui quest'opera di raccogliere anche voci dialettali è preziosissima, sia per orientare i lettori di tutta Italia, sia perché a volte non ha proprio alternativa. Esatto, non si sa poi dove cercare, non si saprebbe trovare una traduzione. C'è qualcosa, sicuramente, che non avete potuto inserire ma che avreste voluto? Ma in realtà ci siamo limitati soprattutto sui giochi moderni, appunto. La gente si aspetta Monopoli, si aspetta Risico, ci sono i coloni di Catan, ci sono gli ultimi successi di autori italiani come Bang, La Guerra dell'Anello, piuttosto che Vasco da Gama e Kingsburg, e ci siamo limitati sui giochi da tavolo con copyright un po' perché appunto la cosa è vasta, la fama è recente, abbiamo messo soprattutto quelli che figurano magari in film o in libri o altro, perché abbiamo cercato anche di vedere come il gioco trasmigra nella cultura alta e bassa e viceversa. E avremmo voluto darne di più, però abbiamo dato solo quello che è più consolidato. Così come ci siamo fermati davanti allo sport, per cui non c'è una voce calcio, anche se magari c'è il calcio alla tedesca, c'è la pallastrada con le regole che ne dà Stefano. Il calcio senza palla, per esempio. Ecco. Esatto, tutte cose più giocose di quello che non sia lo sport professionale, che è una cosa che tutto sommato ci interessava. Ecco, avete toccato anche i videogiochi, alcuni, e io non mi aspettavo invece di vederli in un dizionario di questo genere, nel senso che anche lì la quantità è vasta, quindi avete fatto una scelta su quelli più eclatanti, quelli più venduti. Da un lato sì. Anche basandoci per esempio sulla scelta che ha fatto la Library of Congress americana dei giochi secondo loro epocali da conservare, Poi, come anche per i giochi da tavolo e i giochi di ruolo, abbiamo messo i capostipiti dei vari filoni, i giochi più noti e famosi, piuttosto che i primi, il Pong o quegli altri. Sì, quelli che hanno dato inizio, diciamo così, a una serie, una tipologia di gioco molto precisa. Sono più rappresentativi per certi tipi e certi modi di giocare, tenendo conto che appunto alcuni di questi risalgono a quando il computer era un enorme armadione di valvole ed erano degli scienziati in camice bianca, certo, a giocare col computer, e hanno magari sviluppato l'intelligenza artificiale soprattutto facendo giocare il computer più che con word processor o altri programmi di utilità pratica. Qual è il gioco che giochi di più, Andrea? In questo momento mi piacciono molto i giochi carte matita. E aspetto che mia figlia cresca ancora un pochino, ora 2 anni, per rigiocarli con lei. Ne ho classificati parecchi, alcuni adesso sono anche nel dizionario, però anche lì l'invito è poi a andare oltre. Il dizionario contiene parecchio, ha una bibliografia su cui potete vedere tipi di giochi specialistici come questi, e sul sito Zanichelli adesso metteremo presto nuove voci, perché il mondo è vasto e soprattutto in evoluzione, ne nascono sempre di nuovi, cercheremo di starci dietro anche tramite il sito, certo, in modo da arricchire questa dotazione. Fra 10 anni vedremo il secondo dizionario dei giochi, perché questo è il tempo che ci vuole, minimo. Grazie Andrea Angiolino, buona domenica, grazie davvero. Grazie a voi e salute a tutti. Grazie. Tra l'altro, a proposito di giochi da tavolo, io voglio ricordarvi, non so se lo rimembrate in qualche modo, ma uscirà proprio la versione dei 150 anni dell'Italia unita di Monopoli, e uscirà nei primi mesi dell'anno prossimo, e bisognava votare le città. Ricordate che c'era stata addirittura la Moratti, il sindaco di Milano, che si era prodigata per dire ai milanesi: votate Milano perché non è tra le prime, rischiamo che non ci sia. Fra altre cose, dovete sapere che il vero Monopoli, quello originale, prende spunto proprio dalle città dalle vie milanesi, cioè le vie che ci sono nel Monopoli originale. Via Monterosa, per esempio, la via dove c'è la radio, e le altre vie sono vie milanesi, per cui il fatto che potesse mancare Milano come città nel Monopoli dei 150 anni, così, poteva rappresentare anche una distanza storica, no? Perché Milano ci voleva, e comunque c'è, ma non soltanto lei. Allora, il primo posto delle città più votate, che quindi troverete in questa versione del Monopoli, c'è Chieti, poi Reggio Calabria e poi Catanzaro, Barletta, Andria, l'Isola d'Elba, Ascoli Piceno, ovviamente c'è Monopoli e via discorrendo. C'è anche Milano, comunque, sicuramente Roma e altro ce l'hanno fatta. Adesso vedremo questa nuova versione del Monopoli che successo avrà. Ci fermiamo per qualche annuncio pubblicitario e poi torniamo parlando ancora di vecchi giochi, e voi, se avete ricordi o qualche curiosità, 349-238-6666. Chiudere l'ombrello e aprire un ombrellone. Spegnere il camino e accendere un falò. Togliersi il berretto di lana e indossare un cappello di paglia. Preparatevi a vivere il mare d'inverno come se fosse estate, solo con il mensile I Viaggi del Sole, in edicola. Cerchi un partner tecnico leader nel settore degli impianti tecnologici? Con oltre 20 anni di esperienza, Altin offre soluzioni efficienti progettate sulle tue esigenze. La nuova proposta Global Service per il contenimento dei costi di gestione dei patrimoni immobiliari fa di Altin un'azienda da conoscere. Prenotiamo un viaggettino? No, no! Mi regali un anellino? No, no! In un mondo che dice solo no, c'è una carta che ti dice sempre sì. Carta sì. E col programma Io Sì guadagni punti per richiedere fantastici premi. Carta sì. Sì che puoi. Info e dettagli su cartasi.it/sì che puoi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fiat Professional presenta... So Diego, ti spiego. Fiat Ducato è tuo da 13.900 euro con clima e radio CD. E non è tutto. In più, fino al 31 dicembre, sulla gamma Fiat Professional in pronta consegna, hai fino a 1.000 euro di extra sconto. Scipalpatella, affrettati, non ci incischiamo. Questa è l'ultima occasione. Ci abbiamo un furgone nuovo da zecca e risparmiamo fino a 1.000 euro. Perché chi risparmia a Capodanno... guadagna tutto l'anno. Ammazza che cervello. E io so già in concessionaria. Ugo, ma te l'aspettavi un regalo così? Con Sky Christmas Box hai 10 canali di cinema in HD. Ti vedi, è Christmas Carol. Alice in Wonderland in HD e per la prima volta anche in 3D. Altro che Alice, questo Natale è Ugo nel Paese delle Meraviglie. Regalati Sky e Sky ti regala il cinema a soli 29 euro al mese. Abbonati entro Natale e vedi Sky a tempo di record. Chiama 02 70 70 o vai nei punti vendita. Info su sky.it. Sky, liberi di... Il riposo del guerriero. Arrivano i vostri messaggi, vi do anche il nome del libro del quale ho parlato prima, che è Dizionario dei Giochi, Zanichelli, e appunto da pochissimo uscito, Andrea Angiolino e Beniamino Sidoti, gli autori. Alessandro Franzini, buona domenica. Buona domenica a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, parliamo della Fondazione Paolo Franzini Tibaldeo, il Museo del Giocattolo e del Bambino. Ci vuole un museo. Voi quanti giochi e giocattoli, anzi, avete raccolto, più o meno, insomma? Il Museo del Giocattolo e del Bambino, che oggi si espone in due diverse sedi, una vicino a Piacenza e una appunto vicino a Milano, conta complessivamente oltre 3.000 giocattoli antichi dal 1700 fino agli anni 60 del Novecento. Ecco, che cosa avete, nel senso che solo bambole, giocattoli oppure anche i giochi da tavolo piuttosto che altro? Ogni tipo di giocattolo possibile, immaginabile, talvolta anche inimmaginabile. Noi cerchiamo di rappresentare l'universo ludico a 360 gradi. Quali sono le cose più strane? Quante ore abbiamo? No, va bene, un po'. Lo so, no, ne abbiamo veramente tante di cose strane, bisogna assolutamente venire a vederle. Ci sono cose diversissime, sia per quanto riguarda i materiali, le tecniche di gioco, ma soprattutto la fruizione del bambino. Ecco, noi pur essendo ben coscienti di esporre oggetti talvolta unici al mondo, comunque molto molto rari all'interno delle rispettive produzioni, è l'ultima cosa che ci interessa, non interessa il racconto che si può trarre dall'osservazione dell'oggetto. Infatti create dei percorsi proprio in questo senso. Percorsi sia storici che tematici, e l'idea è proprio quella di utilizzare il giocattolo come testimone preciso, puntuale, talvolta spietato, di eventi occorsi in un determinato momento storico e che si è ritenuto opportuno all'epoca trasmettere in chiave educativa alla generazione a venire. Ecco, come possiamo raccontare la storia dei bambini attraverso i giocattoli nella loro evoluzione? È proprio quello che noi facciamo, chiaramente è un racconto a volte felice, più spesso purtroppo amaro, ma che però emerge in maniera molto chiara al di là di come ci viene rendicontato dalla cosiddetta storia con la S maiuscola, sì, che tende a parlare di re, imperatori, di guerre mondiali, rivoluzioni sociali, tutte cose importantissime, ma c'erano anche i bambini durante tutti questi eventi. Come no? E i bambini in genere nei libri di storia sono parlati in termini statistici, numeri, percentuali, ma c'erano vite dietro quei numeri, vite che erano risolute a voler rimanere tali e, perché no, magari addirittura giocare. Quindi ogni tipo di gioco viene assolutamente testimoniato, ci sono giochi e giocattoli, sono due cose diverse, gioco e giocattolo non sono sinonimi, il giocattolo è solo uno tra mille modi di giocare e per certi punti di vista è meno creativo, soprattutto laddove è strutturato, più è strutturato il giocattolo minore sarà l'intervento del giocatore e c'è una differenza fondamentale tra bambino che gioca e bambino che viene fatto giocare. Certo, perché il giocattolo ti impone in qualche modo di essere usato in quel modo. Secondo me molti giocattoli diventano moderni, soprattutto diventano veramente interessanti quando finiscono le pile, perché se tu non le sostituisci a quel punto il bambino è, tra virgolette, costretto a essere lui, a inventarsi qualcosa se vuole continuare a interagire con quell'oggetto, senza invece essere costretto a seguirne più o meno pedissequamente le istruzioni. Ecco, mi viene in mente addirittura ultimamente Buzz Lightyear di Toy Story, uno dei protagonisti giocattoli di questo straordinario film di Pixar, e inavvertitamente toccano una leva per cui cambia completamente personalità e il giocattolo diventa completamente diverso da quello che ci si aspettava. Di conseguenza più affascinante. Assolutamente, aggiungo, sì, certo. Un personaggio spaziale che si mette a ballare il tango è qualcosa che in psicologia chiamano dissonanza cognitiva e quindi proprio attraverso la dissonanza cognitiva è più facile veicolare emozioni primarie, quindi nel caso di un giocattolo stupire un bambino e quindi in ultima analisi divertirlo e affascinarlo in maniera maggiore. Ecco, c'è coscienza da parte dei vostri visitatori e di tutto questo? Cioè, si viene più per curiosità o davvero per cercare di capire la storia in qualche modo? Ovviamente è un museo composto proposito il nostro. Sì. I nostri visitatori vanno dalla scuola materna alla terza età e ognuno trova delle suggestioni diverse ed è giusto che sia così. Noi abbiamo messo a punto dei programmi didattici, ricreativi, a seconda dei casi, differenziati nei toni e nei contenuti a seconda dell'età e dei desiderata dei visitatori. In questo modo si può fornire, pur vedendo gli stessi oggetti, fornire delle indicazioni diverse e quindi guidare il visitatore a considerazioni diverse. Ne cercate ancora di giochi e giocattoli? Siete sempre alla ricerca o siete abbastanza pieni, diciamo? Siamo pieni al di là di ogni dire, ma i musei sono sempre in progress, non esiste un museo fermo, un museo che si ferma è luogo dedicato alla polvere, quindi noi continuiamo a ampliare le collezioni, le sezioni già esistenti, ma ne creiamo nuovi anche, per esempio dal punto di vista storico. Io prima le ho detto che adesso noi arriviamo agli anni 60, però giocattoli anche più recenti cominciano a essere adesso messi via per un'esposizione futura. Devono essere un po' storicizzati, devono entrare nell'immaginario popolare prima di poter avere accesso a un'esposizione museale. Ecco, però avverrà. C'è frequentazione o non abbastanza? Le persone non sanno che esiste questo tipo di museo, che fra l'altro, voglio dire, è uno dei più grandi musei del giocattolo in Europa. Il museo esiste da 21 anni. Sì. Detto questo, l'80% dei nostri fruitori ha meno di 10 anni, perché comunque un luogo intitolato al giocattolo e al bambino chiama immediatamente all'idea che si tratti qualcosa legato ai bambini. E invece non è così. Felici, ecco. Però poi chi è che sfugge al mondo del gioco? Assolutamente nessuno, tant'è vero che la puntata di oggi è dedicata proprio a questo aspetto del gioco e del giocattolo. Cambiano i modi di giocare a seconda dell'età naturalmente, ma non certo il desiderio di farlo. L'uomo è ludens ben prima di essere promosso sapiens, quindi giocare è una necessità primaria dell'individuo. Assolutamente, e davvero non ha età. Alessandro Franzini, grazie davvero per tutto quello che fate. Il sito è museodelgiocattolo.it per avere tutte le informazioni. Esatto. Grazie ancora, ciao, buona domenica. Voglio ricordarvi il numero verde perché ci sono giochi anche per voi, la possibilità di portarvi a casa le esperienze di Smart Box, ne abbiamo tre da regalare anche oggi, 800 24 00 24, e se avete qualche bambola che volete conservare ma non è messa magari troppo bene, tra poco vi sveleremo come rimetterla in sesto. Ogni favola è un gioco, se ti fermi a giocare dopo un poco lasciala andare, non la puoi ritrovare in nessuna città, perché è vera, soltanto è vera, soltanto è vera, soltanto a metà. Edoardo Bennato, ogni favola è un gioco, ci voleva, ecco questa bellissima canzone, è vero, le favole sono giochi ma non soltanto. Tiziana Grassi, buona domenica, ciao Tiziana. Ciao, buona domenica anche a voi. Allora, Tiziana fa un lavoro molto particolare, lei è la responsabile di un ospedale, ma l'ospedale delle bambole, si chiama Dolls Hospital, e siamo a Napoli in via San Biagio dei Librai. Precisamente Spacca Napoli. Ecco, allora Tiziana... E chi ha una bambola rotta la porta da voi? Sì, precisamente. Noi aggiustiamo da circa 4 generazioni i giochi, cioè i giocattoli dei bambini che insomma li hanno rovinati e che quindi non se ne sono mai voluti separare. E così dopo qualche anno si ricorda o lo ritrovano in soffitta o lo ritrovano in un cassetto. O insomma così, e decidono così di venire da noi per rimetterli un po' in sesto. Ma come, in un mondo dove appena si rompe una cosa al posto di far aggiustare la cambi, adesso invece cambia la tendenza. Beh, va bene. La verità no, che la tendenza secondo me non cambia, un po' il giocattolo è cambiato e quindi diciamo siamo nell'epoca in cui il giocattolo è anche un uso proprio, cioè mezzo di consumo, il giocattolo si rompe, si butta. Sì. Ma fortunatamente noi abbiamo ancora tanti clienti, anche molto giovani, che anche la bambola che non funziona più, loro cercano di rimetterla in sesto, non gliene frega neanche più tanto che diciamo il meccanismo venga ripristinato, ma quanto che semmai l'occhietto restia al posto giusto e che il braccio abbia la sua funzione, insomma diciamo quella di potersi muovere in alto e in basso. E diciamo che noi facciamo questo, spesso facciamo diventare dei giocattoli ignoranti, nel senso che non fanno più nulla, ma comunque nella memoria del bambino, cioè il bambino dice io voglio quello e non ne voglio un altro nuovo. Lo sappiamo come ci si attacca ai giocattoli, alle cose. cose alla coperta di Linus, non può mancare. Senti Tiziana, quindi voi cambiate tipo gli occhi, dovete trovarli però identici, perché due occhi diversi, oppure in quel caso li cambiate tutte e due, per esempio? Solitamente li cambiamo tutti e due. Quando si rompe un occhio, a meno che insomma non riusciamo ad avere proprio quello identico, sì, allora riusciamo a sostituirlo, altrimenti li cambiamo tutti e due, ma insomma dello stesso colore, poi il cliente viene a sceglierlo, insomma diciamo siamo ci siamo sempre in contatto con il nostro cliente, diciamo il nostro genitore del giocattolo. Ma si possono anche spedire le bambole da voi per vedersi riparare, perché sì, magari una a Milano, a Napoli, Sì, ce ne spediscono, ci mandano prima delle mail dove ci fanno vedere le fotografie del giocattolo, in che condizione sta, quindi la bama e lo stacchiotto, perché poi noi abbiamo l'ambulatorio veterinario per peluche, penso che aggiustiamo anche peluche. Per cui niente, loro ci mandano così e noi mandiamo una piccola diagnosi. Certo, quindi con un costo. Loro. Più o meno quanto si spende a mettere a posto un peluche o una bambola? Indicativamente dai 10 euro insomma un massimo di 50-80. Ah, beh, quindi vale sempre la pena metterla a posto. Sì, qual è la, c'è una bambola così più gettonata rispetto alle altre? Mi viene in mente il Cicciobello, per dire una bambola che è stata particolarmente famosa. Sì, devo dire che le signore che oggi vengono da me sono signore di 40 anni che insomma da poco hanno una bambina e che semmai vogliono dare la bambola, ripassare la bambola che avevano loro, sì, quando erano piccole. Certo. Ecco, quindi il Cicciobello, solitamente o Cicciobello o Patatina, che sono proprio le due bambole che sono andate proprio alla grandissima 35-40 anni fa. Quindi occhi da cambiare sicuramente, qualche volta anche i dischi invece del meccanismo della parlata, no? Sì, perfettamente. Io dico sempre che noi abbiamo due reparti, quello oculistico e quello ortopedico, che è sempre pienissimo, perché è una delle cose che si, diciamo, le due rotture. Sì, nella schiena c'era questo pezzo, diciamo così, che è quello che si poteva spaccare. Sì. Tiziana, il modo per raggiungervi attraverso internet, immagino. Sì, attraverso internet, noi abbiamo la nostra email che è info@ospedaledellebambole.com e poi siamo presenti su Facebook come Ospedale delle Bambole, se volete diventate nostri amici, perché su Facebook noi insomma diciamo che aggiorniamo quasi quotidianamente, mettiamo le foto, tutte le cose un po' più particolari, i lavori che facciamo. Insomma, devo dire è molto attivo il sito su Facebook, nostro. Hai fatto bene a dirlo, perché a proposito c'è anche il sito di Facebook dedicato al riposo del guerriero. Io mi dimentico sempre di ricordare gli ascoltatori, ma mi piace farlo. Tiziana Grassi, grazie e insomma grazie, e buon lavoro nel vostro Ospedale delle Bambole. Anche loro hanno bisogno di essere messe a posto. Buona domenica. Ciao anche a voi, ciao, grazie. 10:46, gli aggiornamenti sul traffico. Strade in diretta. Rallentamenti sulla 4 Milano-Brescia per un mezzo che ha perso il carico tra Rovato e Palazzolo in direzione di Milano. Massima prudenza in queste ore che è in viaggio per possibili tratti ghiacciati, soprattutto al nord e nelle zone interne del centro, viste le basse temperature. E oggi sono previste deboli nevicate al nord anche in pianura. Al momento sta nevicando sulla 5 Torino-Osta tra Autoporto e il traforo del Monte Bianco e sulla 32 Torino-Bardonecchia tra Savux e Bardonecchia. Attenzione alla nebbia, inoltre, che riduce la visibilità sull'autosole tra Magliano Sabina e Ponzano Romano e sulla 11 Firenze Mare tra Firenze Peretola e Pistoia. In Toscana resta chiusa per ghiaccio la Firenze Pisa Livorno, la superstrada di grande comunicazione tra Empoli Ovest e Lavoria in entrambi i sensi di marcia. E resta chiuso per ghiaccio nelle due direzioni anche il raccordo Siena Firenze tra Bargino e Firenze Certosa. Ed è tutto, torniamo ad aggiornarvi tra mezz'ora circa. Promo 24. Da Poste Italiane nasce Poste Impresa, una rete di uffici dedicati con personale esperto in soluzioni su misura per tutte le esigenze di imprese, professionisti, associazioni e pubblica amministrazione locale. Oltre 500 uffici dedicati esclusivamente alle imprese per offrire servizi di gestione finanziaria, prodotti postali, bancari, assicurativi, di telefonia mobile, servizi online e articoli per l'ufficio. Gli uffici blu di Poste Impresa sono presenti su tutto il territorio nazionale, con personale in grado di fornire informazioni sui servizi per ogni specifico settore di attività. Per informazioni 800 160 000 oppure poste.it/posteimpresa. Il riposo del guerriero. Abbiamo parlato di giochi antichi, giochi in scatola, ce ne sono veramente tanti. Bisogna fare davvero una trasmissione dedicata ai giochi, ma ci sono anche i videogiochi. Gaetano Ruvolo, buona domenica. Ciao Gaetano. Buona domenica, ciao Stefano. Presidente dell'AESVI, che è l'associazione editori software videoludico italiana, e cerchiamo di far capire come il videogioco sia anche uno spunto per fare cultura, e quindi non è soltanto un passatempo per perdere tempo, come molti ancora pensano in Italia. Gaetano. Sì, giustissimo. Diciamo che il videogioco sta uscendo dalla fase oscura in cui, come la luna a due facce, insomma, tutti hanno, quasi tutti, 7 famiglie su 10 in Italia con bambini hanno videogiochi, console per videogiochi in casa. Quindi c'è dappertutto, però non si vede mai la faccia chiara della luna. In questo caso il fattore anche di apprendimento culturale, didattico anche, che il videogioco può offrire. Ecco, voi organizzate il Games Forum, ci vuoi spiegare che cos'è? Anche perché l'ultimo che c'è stato, il secondo, credo che abbia dato esiti particolarmente interessanti e promettenti per l'Italia. Sì, il Games Forum è un incontro con le istituzioni e la presentazione al mondo delle istituzioni del mondo del videogioco. Quello di quest'anno è stato particolarmente per noi entusiasmante, perché gli ospiti erano di grande rilievo, e insomma, abbiamo scoperto insieme ai nostri ospiti il fatto come il videogioco possa essere utile al di là del fatto di essere divertente. Quindi c'era, insomma, il ministro dell'istruzione Gelmini, che ha confermato l'interesse per l'utilizzo dei videogiochi come con le funzionalità di apprendimento, quindi potenzialmente didattico. Poi è stato presentato lo studio del professor Mannheimer proprio sull'utilizzo nelle famiglie dei videogiochi anche come elemento di unione tra genitori e figli che giocano insieme. Poi ha condotto Bruno Vespa, e quindi insomma c'era il senatore Giovanardi, insomma molte personalità che hanno dialogato in maniera del tutto poi tranquilla e proficua su questi aspetti del videogioco. Ecco, hai citato Giovanardi, sto segretario alla famiglia, e volevo capire quale fosse la sua posizione invece sui videogiochi, perché anche far capire il termine, no? E non è così semplice, purtroppo. No, infatti devo dire che Giovanardi ha introdotto nell'argomento della discussione il mondo delle scommesse online. Noi abbiamo chiarito che non c'entrano assolutamente nulla. Non c'entrano assolutamente niente, che l'industria dei videogiochi in Italia rappresenta esclusivamente videogiochi per console, cioè tutto quello che si ritrova poi in casa, in famiglia. Il mondo delle scommesse online è un altro mondo, non ha niente a che fare con il nostro. Ecco, si è convinto di questo o è ancora un po' confuso? Così, no, per curiosità mia. Credo che sia convinto, anche perché insomma gli è stato spiegato in quel momento. E diciamo che forse noi che siamo più dentro al mondo del videogioco pensiamo che ci sia una consapevolezza maggiore di cosa rappresenta il videogioco. Invece c'è ancora parecchia confusione su questo argomento. Ecco, poi vedremo l'Italia come si comporta da questo punto di vista rispetto al resto del mondo. Parlavi prima di Mannheimer e delle ricerche che sono state fatte. Una di queste, fatta su un panel di 1.006 ragazzi, 55% maschi, 45% femmine, fra i 10 e i 12 anni, ha risposto a delle domande riguardanti il mondo dei videogiochi, raccontato proprio da loro. E sentiamo quali sono state le risposte. Durante il tempo libero, il 54% dei ragazzi preferisce fare sport, il 14% si dedica ai videogiochi e il 12% guarda la TV. Più della metà non dedica oltre un'ora al videogioco e quasi il 60% talvolta gioca con titoli destinati a un pubblico più adulto. L'83% gioca a casa propria e spesso senza gli adulti. Il 40% acquista videogiochi con fratelli e amici, mentre quasi il 30% lo fa insieme ai genitori. Oltre il 62% riceve dai genitori limiti e regole sui tempi di gioco. Ecco qua, quindi i genitori insomma sono piuttosto presenti, devo dire, quando i figli piccoli giocano. C'è un simbolo, si chiama Peggy, che serve a rappresentare il contenuto del gioco, e volevo che tu ci spiegassi, Gaetano, quanto questo simbolo è percepito e capito dagli stessi genitori. È molto importante, perché è una regola che vi siete dati da soli e che deve funzionare, però cioè, per farlo funzionare bisogna fare in modo che la si possa conoscere questa regola. Esatto, il PEGI c'è da diversi anni, l'anno scorso è stato introdotto il PEGI 2.0 che ha rinnovato in parte i simboli dando anche una colorazione, per cui i giochi 3-7 anni sono in verde, 12 giallo, 16-18 rosso. Ecco, un po' come i bollini che si trovano nei film delle reti, no? Per far capire, avete usato lo stesso codice di colore in modo che possano essere più facilmente riconosciuti. Esattamente. Quello che abbiamo scoperto facendo appunto questa ricerca è che la conoscenza del PEGI è ancora molto bassa, troppo bassa da parte dei genitori, un po' più sviluppata da parte dei ragazzi invece. Ed è uno dei leitmotiv che l'associazione sta portando avanti negli ultimi 2 anni, ma è una delle cose che faremo anche l'anno prossimo, nei prossimi anni, fino a che saremo certi che questa consapevolezza sarà alta. Ora il PEGI, per esempio, è presente su tutti i videogiochi, quasi il 99,9% di tutti i videogiochi in commercio. Non è invece ovviamente presente in tutti i giochi pirata. E questo assicura una maggiore tranquillità, dovrebbe assicurare una maggiore tranquillità ai genitori, cioè quello di acquistare esclusivamente giochi messi in commercio legalmente. Anche perché quello poi è un altro problema che si apre, che potremmo discutere da un'altra, in un'altra sede, nel senso che la pirateria è un fenomeno molto italiano, secondo te Gaetano, o comunque piuttosto generalizzato? Purtroppo abbiamo un primato non indifferente. Noi insieme alla Spagna ce la battiamo purtroppo per il primo posto in questo caso. Insomma, a noi pagare non piace. A noi pagare non piace, e pensiamo sempre di essere furbi e di prendere delle scorciatoie, ma in realtà poi chi ne paga le conseguenze sono intanto l'industria e il commercio, e quindi sono posti di lavoro. Gli aventi diritto, gli autori dei videogiochi ovviamente, che non percepiscono nessun compenso e quindi vengono decurtate i loro giusti introiti, e poi soprattutto il fatto che non c'è più nessuna regola, quindi tutto quello che noi cerchiamo di fare come industria per favorire un controllo da parte dei genitori sulla correttezza del videogioco per i loro bambini si perde, chiaramente superato. Non è troppo alto il costo di videogiochi, quelli più nuovi per esempio, che arrivano anche a 70-80 euro? Diciamo che adesso i videogiochi, le novità sono sui 69 euro, però c'è da dire che dopo qualche mese già c'è la possibilità di acquistarli a prezzo ridotto, ci sono delle promozioni, e poi esistono delle serie, diciamo, di classici che vanno anche a 29. Quindi il consiglio è sempre magari di aspettare un pochino, magari riuscire a prendersi quel gioco di quel momento perché lo si vuole, ma gli altri che possono aspettare è meglio aspettare qualche tempo prima di portarseli a casa. Diciamo che l'industria offre e il commercio offrono parecchie alternative possibili proprio per avvicinarsi anche come prezzo ai consumatori. Però mi raccomando, sempre originale. Gaetano Ruvolo, grazie, ciao, buona domenica. Prego, ciao. Il riposo del guerriero. Le 11:06, ancora buona domenica da Stefano Gallarini, continua il riposo del guerriero. Voglio ricordarvi che alle 11:15 giocheremo con i cofanetti regalo Smart Box, potrete ricevere il regalo, un'esperienza, ne abbiamo 3 da donarvi oggi, e poi vi spiegherò come si fanno a portare a casa, ma è molto semplice, per cui prenotatevi 800 24 00 24, e più tardi alle 11:30, visto che oggi l'argomento è il gioco, giocheremo con il mistero in 24 minuti, quindi la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere sul sito lafeltrinelli.it. E si gioca sicuramente a tombola, come avevo detto prima in apertura del programma, dopo il pranzo di Natale che molti faranno, oppure dopo la cena della vigilia di Natale, e si gioca certo ma con la pancia piena, per cercare però di non aumentare troppo di peso e di metterci in sesto dopo i bagordi natalizi e delle feste. C'è come sempre il nostro Harry Chenot. Harry, buona domenica. Stefano, buona domenica a te. Allora, oggi dobbiamo sentirti assolutamente perché stanno arrivando le feste, sono sempre più vicine, spesso siamo invitati, almeno me lo auguro, a cene e a pranzi. È difficile dire di no, perché è bello anche stare con gli amici, indubbiamente pranzare o cenare è un momento conviviale interessante, bello, che non bisogna mai, insomma, mancare. Però magari qualcuno sta cercando così seguendo una dieta e quindi vorrebbe non andare per non mangiare, invece mangia lo stesso, tutto si sballa e il nostro peso aumenta. Cosa possiamo fare? Praticamente sono due cose fondamentali che sempre dobbiamo tenere conto. La prima cosa fondamentale è che, come l'abbiamo detto tante volte, l'organismo non può consumare alimenti per 2 giorni. Dunque può unicamente alimentarsi per 24 ore, d'accordo? Allora, in teoria che succede durante le feste? Le feste è lì dove la gente va a mangiare più dolce, va a mangiare più farinacce, va a mangiare tutta una quantità di prodotti che sono più del tipo glucidi, cioè con alto contenuto di zucchero in particolare. Sì. E che ovviamente sono loro che appena superiamo una quantità media praticamente di 100 grammi netti giorni, tutto il resto praticamente viene a finire in grasso. È per quello che dopo le feste la gente prende 2 kg, 3 kg, 4 kg, prendono tanto peso. L'importante è di reagire immediatamente, non lasciare accumulare. E come reagire? Non lasciare accumulare queste cose. Allora, immaginiamo, questa sera sono invitato con i miei collaboratori a fare un pranzo, benissimo. Allora, già a mezzogiorno prima, quello è importante, vado a provare di mangiare di un modo diverso. Che vuol dire diverso? Vuol dire che soltanto a mezzogiorno, per la praticità, l'ideale ovviamente, se qualcuno è a casa, di prepararsi dei brodini vegetali che danno sazietà, bene, e mangiare unicamente quello. E dopo, il problema è che quando siamo fuori casa, a questo punto se non si può consumare. Sì, il brodino vegetale è più difficile. Ecco, esattamente, perché quello. Dunque dobbiamo consumare praticamente qualcosa che puoi passarlo. Allora lì l'unica possibilità ovviamente intelligente è l'acqua e la frutta. Sì. Allora, perché l'acqua? Perché sì, praticamente a mezzogiorno beviamo, prima di consumare altre cose, 2 bicchieri d'acqua con tranquillità, ci dà già un piccolo senso di sazietà. Adesso la frutta praticamente è un buon momento, in particolare faccio tra l'altro un po' di pubblicità per la zona dove siamo noi, sì. Si consumano delle mele. Le mele, no? Certo. Che è un prodotto molto ricco, contenuto di fibre, e che è semplice da prendere e praticamente da portare con se stesso. Dopo qual è il problema? Il problema è che praticamente l'accumulo di questi fattori può provocare o va a provocare praticamente un'abitudine al cibo. Io vedo che più la gente consuma certi alimenti, più, soprattutto quando sono zuccherato, va a prendere il gusto di zucchero, no? Va a consumare di più. Allora, lì stesso problema praticamente. Provare a riprendere anche verso le 3 o le 4 del pomeriggio, perché se tu mangi poco a mezzogiorno ci viene quell'angurino, certamente voilà, hai questo tipo di fame nervosa, anche sì. di fame tout court, no? Di nuovo abbiamo il nostro amico acqua, sì. Sempre sono 1 o 2 bicchieri che viene a aiutarti. Però dopo l'unica cosa che puoi fare è riprendere praticamente, o perché come fa freddo di più in più, la gente vuole consumare qualcosa di caldo, o consumare praticamente del tè con un po' di mela. Possono prenderlo un tè verde, per esempio, sì. Al limite, io non sono contrario al 100% con il caffè, un buon caffè per riscaldarsi, e prendere praticamente ancora un po' di mela. Bene. Allora, quindi così noi possiamo prepararci a questa cena. Voilà, possiamo. Allora, la cena, giustamente, attenzione, la cena. Dove sono i pericoli di queste cene? Dove sono? È la prima cena, cioè l'aperitivo. d'accordo? Le noccioline, quelle cose lì. Voilà, nocciolini, piccole cose, piccole toast, tutte queste cose, non ci pensiamo. Siamo lì, prendiamo l'aperitivo, prendiamo qualcosa e riusciamo a ingoiare una quantità di prodotto che poco a poco hanno un accumulo importante. E quando io lo vedo, i miei clienti mi dicono, quando chiedo che avete mangiato, dimenticano quello che hanno consumato prima di passare a tavola. Lì essere molto attenti a quello che vanno a consumare prima di entrare dentro la cena. Alla cena, e no, io l'ho provato sopra di me, voglio dire, non è una cosa che non avevo provato, anche lì iniziate con uno o due bicchieri d'acqua, con sì. Calma, perché ovviamente la donna del caso al ristorante va a proporre delle cose che praticamente vai a accumulare un po' troppo. Dunque, prendi due bicchieri dell'acqua per dire di non sfamarti, però di avere meno bisogno di ingoiare quello che devi prendere dopo. E dopo, l'altro consiglio è di provare di masticare molto di più. Non dimentichiamo quello, a livello della manifestazione. La sazietà, lo ribadiamo, arriva sempre 5 minuti dopo o 10 minuti dopo che consumi gli alimenti. Più vai a ingoiare, meno il cibo praticamente va a dare il segnale di sazietà e più durante la serata praticamente vai a avere la voglia di consumare tutte quelle che ti chiedono. Quindi masticare bene significa anche mangiare meno. Sì, assolutamente, di tutti i modi. Dopo evitare che, e il problema è sempre lo stesso, no? Evitiamo praticamente, proviamo di consumare il minimo possibile, quasi nulla a livello del pane, a livello dei grissini, perché queste cose, perché talvolta questi pasti sono un po' lunghi, durante i pasti se prendiamo un po' di pane di più. È vero che il grosso problema praticamente durante le feste è l'alcol, non bisogna nasconderlo, no? Lì siamo un po' attento perché può scombussolare tante cose. Per esempio, non dimenticate due cose. Il vino bianco, la notte ovviamente fai fatica a dormire. Il vino rosso, al contrario, ti aiuta praticamente a dormire. Dunque, il vino bianco praticamente è un prodotto che puoi prendere a mezzogiorno. Durante queste feste, purtroppo, tramite spumanti, tramite magari il champagne, tramite il vino bianco, fanno delle miscele, la gente fa delle miscele che sono importanti, e anche loro, alla fine, a livello calorie, a livello peso, hanno una grandissima influenza. Poi c'è la mazza caffè, no? Per chiudere. Ah, beh, quello sì, cioè il piccolo grappino, o praticamente le cose calde che tu... Allora, l'ideale, dopo la prossima puntata, sì, andiamo a dire quello che devono fare quando hanno finito le feste, per eliminare praticamente tutto quello che possono essere queste tossine. Certo, allora, benissimo, grazie Henry. Sappiamo come comportarci prima per prepararci alla buffata, diciamo così, delle cene più o meno natalizie, e poi una volta superato questo così periodo di feste vediamo come rimetterci in sesto. Grazie Henry Chenot. Sì, facciamo santa acqua, pensiamo. Va bene, all'acqua, volentieri, volentieri, quella non deve mancare. Grazie ancora, vi ricordo il sito se siete curiosi di conoscere non soltanto lo spazio Henry Chenot, ma anche la sua filosofia, www.harrycheneau.com. Strade in diretta. Sta nevicando sulla 5 Torino-Osta tra Autoporto e la traforo del Monte Bianco e sulla 32 Torino-Bardonecchia tra Savulx e Bardonecchia. Nevischio sulla 7 Milano-Genova tra Ronco Scrivia e Genova-San Pierdarena e sulla 12 Genova-Livorno tra il Bivio 7 e Genova-Nervi. Raccomandiamo la massima prudenza alla guida. In Toscana resta chiusa a causa ghiaccio la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli Ovest e Lavoria in entrambe le direzioni. Resta chiuso per ghiaccio nelle due direzioni anche il raccordo Siena-Firenze tra Bargino e Firenze Certosa. E questa mattina è stato riaperto dopo quello di Firenze anche lo scalo di Pisa. Per chi viaggia in aereo continuano però i disagi a causa del maltempo nel nord Europa. Oggi cancellati da Alitalia la maggior parte dei voli previsti dai per lo scalo londinese di Londra, quindi di Heathrow. Possibili ritardi e cancellazioni anche per i voli dai per Francoforte e Parigi, sempre a causa della neve e del maltempo che sta colpendo il nord Europa ormai da più giorni. Ed è tutto, torniamo ad aggiornarvi tra circa mezz'ora. Il riposo del guerriero. Siamo pronti a regalarvi delle emozioni sicuramente con i cofanetti regalo Smartbox. Smartbox, esperienze da regalare. Eccole qua le esperienze da regalare. 800 24 00 24, tanti cofanetti tematici con fino a 340 attività fra escursione, attività avventurose ed emozionanti, e poi c'è la possibilità di utilizzarle fino al 2012, quindi potete regalarle ovviamente questo Natale, ma il destinatario del regalo avrà tempo per scegliere quello che vorrà, dal lancio dal paracadute fino alla guida con una Ferrari, piuttosto che trattamenti in istituti di bellezza, cene romantiche e tanto altro ancora, a partire da 29,90 euro. Partiamo con Raffaella da Roma. Ciao Raffaella, buongiorno. Buongiorno. Allora, per portarti a casa questa esperienza, guarda, senti i fogli, ne ho tanti qua davanti. Adesso io ti elenco le categorie, tu devi scegliere la categoria che più così ti ispira in questo momento. Se è quella che ho pronta qui da regalarti, te la porti a casa, va bene? Perfetto. Allora, le categorie sono gourmet, benessere, soggiorni, soggiorni e sapori, sport e svago. Cosa scegli? Proviamo con lo svago. Con lo svago, sport e svago, a tutto svago, pausa avventura, energy fitness, adrenalina, motori accesi. Mamma mia, il primo cos'era? A tutto svago. A tutto svago. E niente da fare, mi dispiace. Ciao Raffaella, ciao. Grazie. Buona domenica, ciao Fabio da Milano, buongiorno. Buongiorno. Ciao Fabio. Allora, ciao. Gourmet, benessere, soggiorni, soggiorni e sapori, sport e svago. Cosa facciamo? Guarda, ti dico quello più adatto a me. Soggiorni e sapori. Ah, soggiorni e sapori. Fuori porta con gusto. Soggiorno divino. Soggiorno gustoso. Atmosfere d'incanto. Soggiorno divino. No, mi dispiace. Niente da fare. Però no. È una bella esperienza da fare quella. Anche per il gioco di parole delle due. Grazie, ciao. Ciao. Fabio da Milano. Grazia da Milano sempre. Buongiorno, Grazia. Buongiorno. Sì. Ciao, aspetta che ricordo il numero. 800 24 00 24. Grazia. Eccomi. Allora, cosa scegliamo? Sai che nessuno ha ancora selezionato la, diciamo, la categoria giusta, a meno quella che ho in questo momento davanti a me. Gourmet, benessere, soggiorni, soggiorni e sapori, sport e svago. Cosa scegli tu allora? Gourmet. Degustazioni, sapori dal mondo, la grande cucina italiana. La grande cucina italiana. Ah, l'abbiamo data via settimana scorsa, niente da fare, mi dispiace. Sì, ciao, andiamo avanti, ciao, mi spiace. Rita da Roma, buongiorno. Buongiorno. Ciao Rita, allora, ciao. Che cosa facciamo? Se me li elenchi per favore. Come no? Non li ricordo. Gourmet, benessere, soggiorni, soggiorni e sapori, sport e svago. Dalle indicazioni che hai dato, io volevo fare un regalo a mio figlio, però mi ha detto che nessuno aveva selezionato le cose. Sì, almeno quella che ho in questo momento qua davanti. Quindi ti chiedo di ripetermela un attimino e ti dico quale. Gourmet, benessere, soggiorni, soggiorni benessere e sapori, benessere. Eccoci qua. Allora, gocce di bellezza, relax per due, spa e benessere, soggiorno e percorso relax, soggiorno e benessere, benessere privilege. Ammazza quanti. Sì, sono tanti, hai ragione. Credo fosse la terz'ultima, me la puoi ripetere? Allora, gocce di bellezza, quindi soggiorno e percorso relax. Era la terz'ultima. Come no, certo che hai vinto. Allora, una notte con prima colazione e ingresso nell'area benessere per due persone in uno dei 50 hotel a 3 e 4 stelle proposti. Complimenti, però questa volta non so, darai a tuo figlio o ci andrai tu? No, mio figlio voleva, vado io e mio marito, ero indecisa, guarda, fra quello per me e per mio figlio che è un appassionato della Ferrari. Vabbè. Avrei fatto un regalo a mio figlio e lo avrei preferito come mamma, capisci? Certo, però insomma, voglio dire. Anche una mamma rilassata è un regalo. Non è figlio, male, no? Al limite vai con tuo figlio, voglio dire, se per due persone sei tranquilla. No, vado con mio marito, scusa. Ah, va bene, come vuoi, giustamente. Ciao Rita, grazie, ciao, buon Natale a tutti. Anche a te, Luisella da Asti. Intanto buon Natale a tutta la redazione e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Grazie. Allora, dimmi, Luisetta. Potrei scegliere pure io benessere? Come no, sì, guarda, va bene. Sceglilo pure, nel senso che ti potrebbe andare bene. Perché siamo già di sceglierlo. Siamo già sulla buona strada. Allora, gocce di bellezza, relax per due, spa e benessere, soggiorno di benessere, benessere privilege. Andiamo sul privilege. E infatti quello è, bene, brava, è proprio questo. Wow, che bel Natale mi fate fare. Hai grazie. Visto? E lo farei, no, dico, nel senso che è un trattamento benessere per una persona in una delle 50 spa esclusive. Per cui tu sceglierai quella che ti piacerà di più e ti godrai una spa, una giornata tutto relax. Grazie. Tutto relax. Grazie, ciao. Grazie a voi e ancora auguri a tutti quanti, siete bravissimi tutti. Grazie Luisella, ciao. Roberta da Milano, buongiorno. Roberta, pronto? Pronto. Eccoci qua, Roberta. Allora, abbiamo l'ultima scusami, sto guardando che mi sto perdendo anch'io. Smartbox, eccoci qua. Ho preso allora, appunti io. Hai preso quindi. Appunti e hai fatto bene. Allora, togliamo il benessere, perché ormai l'abbiamo dati tutti. Allora, gourmet, soggiorni e sapori, sport e svago. Svago? Svago, sport e svago. E non ci siamo. No, no, mi dispiace. Anche a me. Intanto vi faccio gli auguri. Anch'io te li faccio. Mi spiace non averti potuto dare nessuna Smartbox. Le regalerai magari tu a qualcuno. Grazie, esatto. Roberta. Seguire ciao. Questo consiglio. Grazie. Ciao. Mariella da Genova, buongiorno. Buongiorno. Ciao Mariella. Allora abbiamo gourmet, soggiorni e sapori. Sport e svago, abbiamo detto, vi ho aiutati, per cui soggiorni? Soggiorni, allora, insolito fuori porta, soggiorno culturale, dimore di charme, due notti e una meta, city break, perché meta si può anche leggere metà, no? No. Dimore di charme? Ti piace dimore di charme? Sì. 140 soggiorni in tutta Italia per trascorrere una notte in un luogo unico, lontano dal caos cittadino. Mariella, però no, mi dispiace. Avrei tanto voluto, ma niente da fare, mi spiace. Grazie. Ciao Mariella. Grazie, auguri anche a te. Franco da Pordenone, buongiorno. Buongiorno. 800 24 00 24, vediamo se riusciamo a regalare quest'ultima Smartbox. Franco, allora, cosa scegli fra gourmet, soggiorni? Dai, fra gourmet e soggiorni, facciamo così, rimani sui soggiorni. Soggiorni. Ok, aspetta, e ci siamo. Allora, io potrei regalarti l'insolito fuori porta, il soggiorno culturale, il limore di charme, due notti e una meta, city break. Abbiamo capito che il limore di charme non è, giusto? No. Quindi insolito fuori porta, soggiorno culturale, due notti e una meta, city break. Dai, soggiorni culturali. Soggiorni culturale. Sai che l'abbiamo dato la settimana scorsa? Mannaggia davvero. E non viene fatto il bis. No, questa volta no, mi spiace. Ciao. Grazie, ciao. Buona domenica. Ciao Marco da Cuneo. Pronto. Ciao Marco, buongiorno. Ciao. Buona domenica. Tanti auguri. Grazie anche a te. Allora, speriamo di farteli bene questi auguri. Siamo sui soggiorni e sono avanzati. L'insolito fuori porta, due notti e una meta, city break. City break. Non è male il city break, perché si può andare ad Amsterdam, a Berlino, a Madrid, ma non è quello purtroppo, mi dispiace. Ciao Marco, mi spiace, ciao. Diego da Milano, ciao Diego. Pronto, buongiorno. Tu mi sa che porterai a casa, è rimasto poco, è rimasto l'insolito fuori porta oppure due notti e una meta? Fuori porta. L'insolito fuori porta? Ma dai! Sì, grande! Hai una scelta di 200 soggiorni, cioè uno fra questi 200 sono le possibilità, grande, ovviamente. E quindi riceverai la Smartbox, verrai contattato e quindi passerai, insomma, un buon Natale sicuramente. Il regalo te l'abbiamo fatto noi insieme a Smartbox. Grazie a te, ciao. Abbiamo regalato tutte le Smartbox che avevamo, ma tra poco potrete portare a casa fino a 1000 euro invece da spendere sulla Feltrinelli.it. Il riposo del guerriero. Siamo pronti a far scattare il nostro cronometro, 24 minuti di tempo per risolvere un mistero. Un mistero in 24 minuti. 800 24 00 24, la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere sulla Feltrinelli.it. La risposta può essere una notizia della settimana oppure un personaggio del passato, del presente o di fantasia, purché ovviamente conosciuto. Per arrivare alla risposta avrete degli indizi musicali, forse il primo indizio l'avete già ascoltato durante la settimana, ma ovviamente ve lo ripropongo adesso. Eccolo qua. Devo dire che traducendo il testo di questa canzone delle Spice Girls, ecco, va bene anche tenerlo in inglese, non è tanto un problema. Gianpaolo, buongiorno, ciao. Buongiorno, ciao. Allora, questa era Stop delle Spice Girls, non so se le riconosciute, però, insomma, vabbè, loro erano. Allora, è il primo indizio e vale 1000 euro la tua risposta. Cosa provo vogliamo a dare la risposta subito. Allora, Gianpaolo, io segno qua 1000 euro, chissà che non siano i tuoi, vai. Allora, io dico Belen Rodriguez per lo stop in riferimento a una compagnia telefonica che ha detto... Forse sì. No, forse basta, non è che deciso. Sì. Forse... Vabbè, sì. Tu cosa pensi? Dicono che non, così, che non funzioni molto come... Sì, esatto. Testimonial. Esatto. Non lo so. Potrebbe non lo so. Essere... Vabbè, idea. La guardi volentieri, tu dici lei comunque. Sì, sì, certo. Grazie, ciao Gianpaolo, buona domenica. Ciao Gianpaolo, magari ha risposto anche correttamente, però lo potremo scoprire solo al 24esimo minuto. Aurora, buongiorno. Buongiorno. Ho 1000 euro qui, cioè magari sono di Gianpaolo, però intanto sono ancora qua. Cosa facciamo? Io resterei sul primo indizio. Anche tu? Sì, e provo con l'addio alle scene del conduttore televisivo e giornalista Larry King, dopo anni del suo talk show che è andato in pensione. Sì. Grazie Aurora, buona giornata. Grazie. Ciao, buongiorno. Grazie. Questa... Tra l'altro questa è una cosa che ritorna ogni tanto da parte di King. Marcello da Forlì, buongiorno. Buongiorno. Abbiamo ancora 1000 euro, il premio non è ancora sceso, un indizio soltanto, ma chissà. Mi dispiace farlo scendere io. Vabbè, però voglio dire, anche perché Spice Girl vuol dire ragazze speziate, no? Ragazze tutto pepe, possiamo dire così. Quindi sì, chissà l'indizio dov'è nascosto, che magari... pensato anch'io. Magari io voglio ricordare agli ascoltatori che magari sono nuovi, che l'indizio può essere nascosto nel titolo della canzone o anche in chi esegue la canzone. Sì. E a volte anche nel contenuto, nel contesto, diciamo così, raccontato nella storia. Scendiamo a 500 euro e guarda cosa ti ho. Quanti anni hai, Federico? Marcello, scusami. 28. 28, quindi non te lo puoi ricordare, sei troppo giovane. Ecco cosa ho ripescato dal cilindro come secondo indizio: 500 euro. L'antica formula magica. È tanto facile, facile, facile, facile, basta crederci un po'. Oh Babaluga, ti può dare quello che vuoi tu. Sarebbe bello un mago così come un Babaluba che riesce a esaudire qualunque desiderio. Allora Marcello, tu non te la ricordavi sta canzone o sì? No, non l'avevo mai sentita. Te l'avevi mai sentita, ma c'è sempre una prima volta nella vita. Rido perché chi è genitore e ha figli piccoli, questa canzone l'avrà sentita sicuramente, che fa parte delle canzoncine per i bambini. Però io mi ricordo che ebbe un successo straordinario e credo che sia una delle poche cose fatte da Daniela Goggi, che è sorella di Loretta, però ebbe un grande successo e parla di questo mago o Babaluba, allora, che ha delle assonanze anche curiose. Siamo a 500 euro, Marcello, questo era il secondo indizio. Nella canzone si parla di un macinino da caffè, mi è venuta in mente la notizia che hanno deciso che gli stranieri non potranno più acquistare marijuana nei coffee shop in Olanda. Ecco Marcello, bravo che tu vai a cercare queste notizie, complimenti. Ciao, buona giornata, ciao. Buona domenica, ciao. Hai capito i nostri ascoltatori? Rocco da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, buona domenica. Grazie, anche tu sapevi che gli stranieri non possono più, cos'è, non possono più fare, non possono più andare nel coffee shop, penso, ma non possono acquistare marijuana nei coffee shop. Allora Rocco, questa era la notizia, secondo me non sapevi, adesso lo sai, vedi che va bene così. Cosa vuoi fare? Siamo a 500 euro, due indizi li abbiamo scoperti. Prova a dare la soluzione. Oh, rimaniamo a 500. Avevo pensato. Sì. Sì, avevo pensato alla vicenda di un signore contro mano sull'autostrada della Spezia. È stato fermato. Ogni tanto succede, purtroppo. Grazie Rocco, buona giornata. Grazie a voi. Ciao, grazie. Siamo ancora a 500 euro, due indizi li abbiamo scoperti, 800 24 00 24. Pippo. Ciao Stefano. Ciao Pippo. Allora, 500 euro, che cosa vuoi fare? No, io tento. Tu tenti, allora facciamo così. Intanto scopriamo di nuovo, ascoltiamo i due indizi che abbiamo scoperto fino a questo momento. Eccoli qua. Era Stop delle Spice Girls, le ragazze tutto pepe, e O Babaluba, questo mago, cantato da Daniela Goggi. Allora, Pippo, la tua risposta. Allora, siccome stiamo parlando di giochi... Oggi la puntata era sui giochi, sì, però, e vabbè, allora, sì. Tra Stop e Mago, penso potrebbe essere il film che nuovo sul, di stop motion di Oddsworth, che... è stato il regista, ha filmato questa settimana per farlo prossimamente. Pippo, io non posso dire niente, però complimenti per l'associazione di idee. L'ho cercato un po' su internet. Su internet, ormai ho capito che voi mettete i titoli delle canzoni su internet, vedete un po' cosa viene fuori. Prendiamo tutte. Esatto, e trovate delle cose incredibili che... ecco. Infatti, magari non c'entra niente. Insomma... Sono due indizi. Ti faccio i miei complimenti per la ricerca, la capacità. Vi auguro buone vacanze. Anch'io a te, se le farai volentieri, e comunque auguri buone feste. Ciao Pippo, grazie. Monica da Pisa, buongiorno. Buongiorno a voi. Ciao Monica. Allora, 500 euro, hai sentito Pippo cosa ha messo insieme? Lo stop motion addirittura, lo stop motion è andato a pescare. Io preferisco ascoltare un'altra canzoncina. E quindi scendere a 300 euro? Sì. Ti piace Lucio Battisti? Parecchio. Eccolo qua allora, un po' di tempo fa. Questo è il nostro grande amore, che sfortuna. Che veramente questo sia un esercizio di stile, Monica. Cioè Mogol racconta di un tradimento di questa che lavora al supermercato e fa indigestione di banane e lui si arrabbia, scusatemi, però viene da sorridere, ma credo davvero che sia un esercizio di stile, perché racconti una cosa senza assolutamente raccontarla, ma la fai capire. molto chiaramente. Monica, conoscevi questa canzone di Lucio Battisti? No, mai sentita. Ecco. Davvero, mai sentita. Di molto tempo fa. E comunque veramente complimenti al modo per aver escogitato, ecco, il come raccontare un tradimento senza dirlo. Monica, questa era Supermarket di Lucio Battisti come terzo indizio, sto dicendo al terzo posto, come se fosse una classifica, e siamo a 300 euro. Una canzone che mi porta in alto mare, allora vabbè, diciamo così, non voglio essere offensiva, però potrei dire i magheggi del governo per ottenere la fiducia. Eccoci qua, grazie Monica, buona giornata, ciao. Gli aggiornamenti sul traffico, poi continuiamo, siamo a 300 euro nel nostro mistero, in 24 minuti il numero per prenotarvi, 800 24 0024. Strade in diretta. Dopo una breve tregua tornano a peggiorare le condizioni meteo al nord Italia, sta nevicando sulla 5 Torino-Osta tra Morgia e il traforo del Monte Bianco e sulla 32 Torino-Bardonecchia tra Savux e Bardonecchia, nevischio sulla 7 Milano-Genova tra Isola del Cantone e Genova-San Pier d'Arena e sulla 12 Genova-Livorno tra il Bivio 7 e Genova-Nervi. A chi è in viaggio lungo questi tratti raccomandiamo la massima prudenza alla guida. Attenzione anche a possibili tratti ghiacciati viste le basse temperature al nord e nelle zone interne del centro. In Toscana resta chiusa per ghiaccio la Firenze-Pisa-Livorno, la strada di grande comunicazione tra Empoli Ovest e Lavoria in entrambe le direzioni. Chiuso a causa del ghiaccio nelle due direzioni anche il raccordo Siena-Firenze tra Bargino e Firenze-Certosa. E questa mattina è stato riaperto dopo quello di Firenze anche lo scalo di Pisa. Per chi viaggia in aereo continuano però i disagi a causa del maltempo nel nord Europa. All'Italia ha cancellato la maggior parte dei voli previsti per oggi da e per lo scalo londinese di Heathrow. Possibili ritardi e cancellazioni anche per i voli da e per Francoforte, Parigi e Bruxelles. Ed è tutto, strade in diretta, torna tra mezz'ora. Un mistero in 24 minuti. Scusate, sorrido perché arrivano i vostri messaggi con i commenti alle canzoni che abbiamo scelto oggi. Devo dire che O Babaluga di Daniela Goggi è stato veramente un pezzo che ha fatto discutere. Federico da Parma, buongiorno. Sì, buongiorno. Ciao Federico, la conoscevi Babaluba? No, in realtà è un indizio veramente positivo, diciamo. Fa anche sorridere parlare di questo mago. Allora Federico, abbiamo tre indizi, 300 euro, cosa vuoi fare? Niente, provo a dare una la risposta. Allora aspetta, come sempre sentiamo i tre indizi che abbiamo scoperto fino a questo momento. Supermarket giovedì, tu lavori lì. Ma non l'ha trovata, non era lì quel giorno, non stava bene. Allora Federico, ecco i tre indizi: Stop delle Spice Girls, Babaluba Daniela Goggi e Supermarket di Lucio Battisti. Ascolta, ne ho due su tre con me. Hai due possibilità su tre. Qui sì, è un caos, devi fare una, devi dirmene. No, ho due indizi su tre. Hai due indizi su tre, l'altro lo dobbiamo incastrare in qualche modo. Esatto. Vabbè. E quindi lo stop ai sacchetti di plastica nei supermercati che dal 1 gennaio 2011 saranno messi al bando. Bravo Federico, complimenti per la tua risposta, non so se è quella giusta ovviamente, però insomma complimenti per con la capacità di mettere insieme gli indizi. Ciao, grazie, buona domenica. Piero da Lucca, buongiorno. Sì, ciao. Allora Piero, cosa vogliamo fare? Abbiamo ancora degli indizi, qui però il premio scenderebbe oppure una tua risposta? Un altro indizio. Eccolo, allora facciamo scendere. Ah, cosa ho pescato anche qui, torniamo indietro. Mancano 5 minuti alla soluzione del mistero. Va bene, torniamo indietro di tanto tempo. Io la cantavo con la chitarra questa canzone. Tu quanti anni hai, Piero? Io la cantavo con la chitarra. Anche tu la cantavi? 70 anni. Vabbè, non sai ancora che canzone è, scusami. Però non lo so, magari sì. Forse. Eccola qua. meno bravi facevano soltanto gli accordi, invece quelli più bravi facevano anche questo momento di assolo, così con l'arpeggio. E non so, tu la cantavi davvero questa Gioco di Bimba delle Gioco Orme? Gioco di Bimba, sì, ma la ricordo bene. Non so, aveva avuto un grandissimo successo, siamo nei primi degli anni 70. E questo è anche il nostro quarto indizio che vale 200 euro. Io l'ho avuto lì, Hai un suggerimento alle spalle, senti. Ho un suggerimento. Eccolo. Allora, Piero. Il personaggio di Larry King. L'hanno già detto. L'hanno già detto, allora non l'ho sentito. L'hanno già detto Larry King. Mm-mm. Il suggerimento cosa dice? La notizia che ha chiuso il programma l'hanno già data. Sì, nel senso che, allora, in effetti tu puoi dire Larry King, perché invece Aurora aveva detto l'addio alle scene da parte di Larry King. Quindi Aurora parlava della notizia, invece tu parli del personaggio. Del personaggio. Come si chiama il tuo suggerimento? Il mio suggerimento? Il mio suggeritore? Sì, come si chiama? Neda. Ecco, che saluto, buone feste, ciao a tutti e due, grazie, ciao. Francesco dalla provincia di Brindisi. Sì, buongiorno, ciao. Buongiorno a tutti. Ciao Francesco. Allora, abbiamo 200 euro, quattro indizi scoperti fino adesso, cosa vuoi fare? Ma io gioco, faccio tentativo. Tu allora, provi, allora aspetta, sì. Sentiamo i quattro indizi che abbiamo scoperto, eccoli sì. Qua. Supermarket giovedì, tu lavori lì. Nel gioco di Bimba si perde una donna. È triste sta canzone. Allora, Stop the Spice Girls, Babaluba di Daniela Goggi, Supermarket di Battisti, Gioco di Bimba delle Orme. Allora, Francesco. Allora, il mio tentativo è questo: si apre il processo a Vanna Marchi. Vanna Marchi? Sì. Sì, è al Mago, la Nascimento. Sì, sì, al Nascimento. È il compagno di suo compagno di Melende, insomma. Grazie Francesco, ciao, buona domenica. Grazie, buongiorno a tutti. Enes, la provincia di Brescia. Sì, buongiorno. Buongiorno. Allora, vogliamo dare una risposta? Sì, senza... No, non lo so, se vuoi anche l'indizio, ma no, c'è poco tempo. No, va bene. La morte dell'inventore del gioco Lotta di Classe, Bertel Ohrmann. Purtroppo non è neanche questa la risposta, Enes, mi dispiace. Va bene. Ciao, grazie però, grazie. Nessuno ha ancora indovinato. Io, cosa c'è, ancora un minuto di tempo, vero? Irene, da Milano, buongiorno. Buongiorno, ciao Irene, mettiamo insieme questi indizi e diamo una risposta che non è difficile. No, secondo me è difficilissimo. Ma non è vero, Irene, dai. Allora, Stop delle Spice Girls, Babaluba di Daniela Goggi, Supermarket di Battisti e Gioco di Bimba e Orme, No, non ho idea. Comunque dico un personaggio politico di questa settimana, Scilipoti. Grazie Irene, ma niente da fare. Proviamoci con Gabriele Di Vercelli. Buongiorno. Ciao Gabriele, è vero che tu hai la risposta? Ma spero, non lo so. Gli indizi mi hanno un po' confuso. Io ho pensato, sentendo soprattutto il primo, all'Obama e Bill Clinton, alla conferenza stampa che Bill Clinton aveva, diciamo, supportato e sostituito Obama. Gabriele, io questi 200 euro non posso mica regalarti. Mi dispiace. È lo stesso. Allora ti spiego, Stop le Spice Girls, qualcosa che si è fermato, qualcuno che ha detto stop, basta, giusto? Ok. O Babaluba di Daniela Goggi. Daniela era la l'indizio era a Daniela. Supermarket, qualcosa che avesse a che fare con i supermercati. E Gioco di Bimba, perché di una bimba parliamo della bambina Rom di Daniela, che ha detto stop al raccattare, in qualche modo a fare l'accattonaggio davanti ai supermercati, e quindi è scappata. Se ne è parlato moltissimo perché era la seconda volta che si ribellava a tutto questo, e quindi adesso è stata mandata in una casa famiglia. E ecco, quindi questa era la risposta del nostro mistero. Mi dispiace, grazie Gabriele. ciao, non c'è più, se n'è andato, non lo sento più. E mi spiace, non siamo riusciti a darvi niente, però è una storia che ha fatto discutere per qualche giorno, se ne è parlato sicuramente, perché ci vuole anche coraggio, visto che Daniela ha soltanto 12 anni. Grazie a tutti, ci sentiamo ovviamente domenica prossima, anche se è il 26 dicembre, Santo Stefano, parleremo del magico Natale, ma veramente nel senso magico. Parleremo infatti di magia e illusionismo. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, l'assistenza di Margherita Aina, in regia Carmelo Lauricella, e l'appuntamento è per domenica prossima, puntuali alle 10.